di sana wuh-wuh, di sini wuh-wuh. Pak Tani punya kebun, iya iya yo. Pak Tani punya kebun, iya iya yo. Di kebunnya ada bebek, iya iya yo. Punya kuek-kuek, di sini kuek-kuek, di sana kuek-kuek, di sini kuek-kuek. Punya wuh-wuh, di sini wuh-wuh, di sana wuh-wuh, di sini wuh-wuh. Di sini wuf-wuf, di sana wuf-wuf, di sini wuf-wuf. Bunyinya kuek-kuek, di sini kuek-kuek, di sana kuek-kuek, di sini kuek-kuek.